Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. La voce di oggi è quella di uno dei più raffinati cantautori italiani. Esordisce sulla scena milanese con gruppi punk e rock negli anni 90 e per qualche anno suona in diversi progetti tra Italia e Regno Unito. Il primo successo di critica nel 2005 con l'album Cose che cambiano tutto. Nel 2006 duetta con Fabri Fibra, nel 2008 il suo secondo album L'Evidenza, collabora con Roberto Dell'Era e col progetto Rezzofonic. Intanto scrive per Noemi, per Nina Zilli, per Francesco Renga, col quale realizza il brano sanremese La tua bellezza. Nel 2012 pubblica il suo terzo album È necessario. Lui è Diego Mancino. È necessario, racconta di ciò che è necessario intorno a me. Ciò che è necessario ovviamente diventa un lavoro, una casa, un tempo, il tempo, l'uso del tempo, uno spazio vitale intorno. È necessario poi anche un manifesto, in quanto sottende sia nel suono sia nell'attitudine di composizione. Cioè abbiamo preso l'hip hop e la musica cantautorale e con la spocchia del punk l'abbiamo mischiata assieme proprio per dare un senso di musica contemporanea e per evitare anche di avere dei riferimenti melodici, armonici a quella che è la musica dei miei maestri, cioè quella di Tenco, di De André, di Paoli. Non perché non mi piacciono, ma proprio perché secondo me in onore, cioè per onorare il loro lavoro, forse ecco, la cosa migliore che si può fare è cercare di scrivere delle canzoni, degli inni che siano dei nostri giorni e non quelli di nostro padre o dei padri dei nostri padri. Era un tentativo, è un tentativo di rimanere legati profondamente all'oggi. E tu ci stai cascando. Questa è l'evoluzione, la mia splendida vita altrove. Sono qui ma non ricordo dove. Vivo qui ma non ricordo come. La mia splendida vita altrove. Sono qui ma non ricordo dove. Vivo qui ma non ricordo come. Hai citato i grandi maestri, erano maestri che guardavano il mondo in cui vivevano prima di scrivere le canzoni, e lo fai anche tu, perché c'è molto mondo di oggi nei testi delle tue canzoni. Sì, ma magari non nei dischi precedenti, Marta, perché nei dischi precedenti era veramente un'analisi che partiva dal presupposto che quello che accadeva era nel mio mondo interiore, e tramite quello, tramite quella lente, cercavo di raccontarlo, perché poi alla fine i sentimenti sono un po' comuni a tutti, no? Per cui tentavo di raccontare in maniera sentimentale il mondo. Questo invece è un racconto dove non c'è più il sentimentalismo, che è bruciato, è stato distrutto probabilmente da una realtà più che crudele, e però è carico di parole d'ordine che rimandano alla voglia di sopravvivere, di ricostruire, quindi smetterla con le catastrofi, così come il futuro non esiste se una casa non ce l'hai e non hai un lavoro. Sono formule che derivano dal punk, da No Future del punk e tutte queste cose qua, riprese oggi in questo contesto, secondo me acquisiscono un valore costruttivo invece che distruttivo, come magari nel 70 era. La prima traccia parla subito della musica. Perché è colpa della musica? Beh, la mia vita, come quella di molti di noi, è stata condizionata tantissimo dalla musica che ascoltiamo. Indubbiamente io sono cresciuto ascoltando spesso dei dischi che non erano affatto primi in classifica. Mi riferisco a, che ne so, quando avevo 16 anni io ascoltavo i Joy Division, i Bauhaus, in Italia erano comunque dei misteri ancora, no? E mi ha formato molto ascoltare la musica di un certo tipo, che è un po', la potremmo definire da loser, almeno per quanto riguarda le classifiche italiane. Mi ha molto formato, mi ha dato la possibilità in qualche modo di essere diverso, no? di provare ad avere un valore in quanto diverso dagli altri. Essere diversi per me è un grande valore, laddove non lo si è a partito preso. Ma la scelta di ascoltare certa musica e la scelta anche di fare un certo tipo di musica, forse Ecco, mi ha formato più, quasi più delle scuole che ho fatto. Quando guardavo i Clash o i Pistols o che ne so, i primi gruppi New Wave Dark, no? Erano tutti molto scarsi come musicisti, ma avevano un'impellenza, volevano dire delle cose. È colpa di quella musica se io poi, nelle mie traiettorie musicali, mi sono sempre messo al margine dei generi. Io non faccio parte della scena indie, non faccio neanche parte della scena mainstream. Sono sempre stato un po' outsider. Sei libero, puoi fare quello che vuoi, puoi dire quello che vuoi. Infatti io scrivo per me, ma scrivo anche per altri, con la stessa libertà e con la stessa passione, tra l'altro. Però qualcosa di mainstream recentemente l'hai fatto perché come autore sei arrivato Sì, a Sanremo. Tu sì, sì. come lo vedi quel mondo lì? Ma lo vedo del tutto uguale al mondo indie. Cioè, nel mondo indie, nel mondo mainstream, c'è gente orribile che fa malissimo il proprio lavoro, ma anche gente che lo fa molto bene. Scrivere per un cantante come Francesco Renga o Noemi, in realtà mi ha dato l'opportunità di imparare tante cose, perché mi danno la possibilità non solo di provare a far entrare il germe della mia scrittura anche laddove magari non mi ascolterebbero mai, ma anche perché poi quando si avvicinano alle mie canzoni questi artisti un po' ci rimangono invischiati perché capiscono che è diversa, perché ci stanno dicendo delle parole che in altri casi non hanno mai detto. Questa roba qua mi rende molto orgoglioso del mio lavoro. In fondo un po' io sono un po' un guastatore, in un certo senso. Ecco, un po' la poesia e la musica che io scrivo hanno un po' questo ruolo, vanno lì a distruggere dei vecchi ponti per provare in realtà a fabbricarne dei nuovi. Parlato dei tuoi amici, ma è vero questa storia del sondaggio per scoprire cos'era sexy per scrivere il testo della canzone? Totalmente vero, sì. Sì, scrissi mentre stavamo proprio componendo il brano, io e DJ Mike abbiamo passato un mese. DJ Mike è il produttore del mio disco, è un DJ produttore di hip hop fondamentalmente, che io ho, chi a cui ho chiesto come dire, di produrre delle canzoni, quindi molto diverso anche per lui, è una bella sfida. Quando abbiamo iniziato a lavorare a Sexy, avevo il computer aperto e ovviamente, cioè era veramente una scemata così, ho detto, oh, che cos'è Sexy per voi? La cosa che mi ha divertito è che tutti quelli che mi hanno scritto cose delicate, cioè nessuno è stato spinto a volgare, la parola sexy diventava quasi come qualcosa che non c'è più. No? Come baciarsi dentro un taxi, che è una roba quasi romantico, vecchio stampo. Piuttosto che mi aveva colpito una ragazza che mi aveva scritto che sdraiarsi sull'asfalto era sexy. E io ho cercato di capire perché. Mi sono sdraiato sul cemento caldo. Mi ha ricordato quando avevo 8 anni ed ero in cortile e aveva appena piovuto. E veniva su quel profumo dall'asfalto molto intenso. Immagino che anche tu ti ricordi. Mi ha ricordato moltissimo la mia infanzia e l'ho trovato molto sexy. Ma nei baci no, nei baci vivo io, e la tua bocca è la mia casa, è la mia casa. Ma nei baci no, hanno un posto, il mio è nei baci che ci diamo. a me piace moltissimo. È il prossimo singolo. Abbiamo fatto il video di quello in Puglia. Una canzone un po' bizzarra perché vuole mettere in paragone l'intimità di una persona e il mondo, cioè il mondo ha un posto per ogni cosa e io lo vedo che la gente del mio paese lo riconosco nelle piazze, nelle scuole i nostri figli possono diventare dei fiori, ma io che posto ho? Io che cavolo ci faccio qua? Che è un po' la domanda che è ovviamente nascosta in mezzo a tutto il disco. Io che cosa servo? Io come te che ascolti, cioè noi a cosa serviamo? Ora, siccome nel disco questo concetto di non avere nulla, cioè di non avere nulla, perché in fondo una casa e un lavoro sono ormai diventati la ricchezza maggiore che possiamo avere. Allora, questa cosa che il bacio che posso dare a te o a mia madre o a mia figlia sono come dire, una cosa che nessuno mi può rubare, una cosa dove vive la mia essenza, la mia, la tua, cioè io vivo nel bacio che ti do perché quella è la nostra casa, quello è il nostro punto, quello è il nostro mondo che nessuno ci potrà levare, perché in realtà, come dire, protegge. Era una specie di modo per invitare me stesso e anche chi ascolta a proteggere le persone, perché noi abbiamo intorno a noi l'evidenza che forse un posto nel mondo dobbiamo veramente fabbricarcelo, perché non ce l'abbiamo, ce l'hanno detto che ce l'avremmo avuto. È un po' quella roba del futuro migliore, grande fregatura, no? Io non credo nel futuro migliore e diffido moltissimo di chi mi dice abbi speranza nel futuro, perché voglio quella canzone e tante di questo disco determinano l'importanza del dominio sull'oggi, soltanto sull'oggi, poi vi mando tutti a quel paese, però è oggi che voglio il mio tempo, il mio spazio, le persone intorno, voglio proteggere adesso le persone che ho intorno, non voglio aspettare domani, non voglio nessuna benedizione, non voglio il perdono di nessuno, voglio avere la mia vita. Nei baci no, è un po' quello, io vivo lì nei baci che ho perché il resto non mi è concesso, però quello non me lo puoi levare. E per il Voci in Scena di oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alla stessa ora.